A questo punto, nel rito di adorazione dell'alba, che come abbiamo visto è composto di due raka, il musalli recita la preghiera di Ibrahim dicendo Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Che significa: o Allah, esalta Muhammad e la famiglia di Muhammad come esaltasti Ibrahim e la famiglia di Ibrahim, e benedici Muhammad e la famiglia di Muhammad come benedicesti Ibrahim e la famiglia di Ibrahim su tutte le creature. Tu in verità sei degno di ogni lode e ripieno di ogni gloria.